performance, ricerca, teatro. E ringraziamo Yumi per la sua splendida voce che ce l'ha prestata, sfruttata dal padre. L'ha cambiata abbastanza adesso, effettivamente potremo, stasera potremo approfittarne e farglieli rifare. Ma per noi resterà sempre così com'era. Ed in effetti le sue parole ci introducono al tema che ha portato qui il nostro ospite. Abaui, abaui, abaui. Che tema ci hai portato? Oddio, ti vedo con un Power Mac. Ma un Power, oddio. Un Airbook. Ok. Beh, questa sera vi porto nel mondo di Dulcamara Circus. C'ho gli applausi, c'ho gli applausi. Attenzione. C'ho gli applausi? No, non li ho presi. Non mi è pronto. Se tu mi dicevi prendi gli applausi, a parte prendi dove, tutto a parte quello che dove dovrebbero essere questi applausi, non ci sono mica. Vabbè. Posso farti sentire sono questo? Sono Teresa Ricci, stai ascoltando Cazzo Spaziale. Dopodiché puoi anche fare così. Questa è sempre Teresa Ricci. Sai che non mi ricordavo che avevamo Teresa Ricci che diceva che stiamo ascoltando Coxon Spaziale. Dulcamara Circus, dicevamo, che ritorna. Sì. Dulcamara Circus. A che edizione siete arrivati? Questa è la seconda. A me sembra che sia già un'istituzione. È la Madonna. Sì, sì. Ma no. Noi siamo partiti la primavera scorsa con la prima edizione di Dulcamara Circus. C'è da dire sulle ceneri di un festival che si chiamava Dulcamart, che aveva portato pionieristicamente il Magda Clan, quindi un tendone da circo, un circo vero e proprio in collina ad Ozzano dell'Emilia, in un agriturismo, un posto fantastico, una location fantastica, con delle marmellate squisite sì, di cui ricordi benissimo. E insomma, dopo l'esperienza di Dulcamart nasce Dulcamara Circus, che è una realtà un po' più ridotta rispetto alla mole di lavoro che c'è per ospitare un intero circo, un'intera compagnia di circo. Però ciò in qualche modo la rende anche più agile e più in sintonia forse con le persone che vengono e magari lo scoprono anche quello che c'è. Sì, esatto. Dulcamara Circus è una rassegna di 6 spettacoli quest'anno sono spettacoli domenicali per lo più, ci sono solo 3 durante la settimana di Pasqua che escono dal meccanismo domenicale. Sono spettacoli di circo teatro per tutta la famiglia, quindi per grandi e piccini, e abbiamo, insomma, l'idea è quella di portare il circo teatro in fattoria, in un ambiente che è casalingo, e far sentire un po' tutti a casa propria, godendo e dando al pubblico degli spettacoli che noi, che curiamo la direzione artistica, noi compagnia Nando e Maila, ecco, questo lo devo specificare, insomma riteniamo... E questa rassegna l'anno scorso ha portato anche star internazionali, quindi... C'è stato sì, ci sono state delle compagnie di livello internazionale, c'era il Circo Pitanga la primavera scorsa, che ha fatto uno spettacolo all'aperto sul prato della fattoria davanti a quasi 900 persone, quindi è stato un bel colpo d'occhio, e fu la Pasquetta questo. Poi abbiamo avuto anche in invernale un ospite canadese. Oltre Atlantico. Andréane Thibutot, spero che si pronunci così il cognome, non ne ho la sicurezza. Lei è un'artista che lavora con Lula Hop. Ah. E fa tuttora ovviamente delle magie con gli hula hoop, che è straordinario, e il pubblico è andato invisibile ovviamente per quella. Va bene, ma adesso non ti chiedo, cioè ti fermo qui perché io sai che sono quella che aderisce alla struttura narrativa del programma, che abbiamo dei tempi. Sì, ma io guardo anche perché io stavo facendo i videogiochi nel frattempo. E quindi sposta un attimo l'attenzione sul monitor e fammi con il brano 01, che poi ritorniamo a Busso sulla rassegna 2017. A Busso. La fiesta! Ale! ¿Dónde está mi negra bailando? Con la saya de tumbiquis bailando. Con la saya de tumbiquis bailando. Se ha metido mi negra, cargada de su guaguita bailando, cargada su agüita bailando. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Negra samba, coge tu mante, siempre adelante. Para la fiesta de los negritos, hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Benito, para la fiesta de los negritos. Para la festa dell'ombelico. Ma è la gioia, ma loro sono i cicco. Ma che gioia, è la gioia che mi Pasquini, ma non ti piacciono? Non ti piace? No, io mi stavo chiedendo, non sapevo che esistesse San Benito. San Benito, ah, sì, io lo sapevo. Ma questa è una canzone, un canto popolare sudamericano o spagnolo, non lo so, ignoranza. Presumo sudamericano, io. Sì, questa viene in origine dagli Intillimani, quindi attenzione, stiamo parlando attenzione. Di tempi che Benito non era ancora nato. Attenzionissima, no, ma attenzionissima soprattutto perché non perdiamoci il gancio che ci dà questo brano gioioso per l'apertura della rassegna Dul Camara Circus. Appunto. Allora, apriamo domenica questa, domenica 19 alle 15:30. Con uno spettacolo spumeggiante, con un artista bolognese che è una bomba, veramente. Lei è Urana Marchesini. Urana Marchesini. E lei è un'acrobata, clown stupendo, e ci porta nel suo mondo con Vai e Vola. Un mondo fatto di idiozie, di clownerie e di acrobazie, appunto. Fa una sbarra russa con un bambù di 4 metri. Allora, sai che cos'è la sbarra? Ho detto vai e vola. Va bene, capito? Va bene, esatto. L'ha capito anche Pasquini, quindi siamo a posto. La sbarra russa. Ma che cos'è la sbarra russa? Lo sappiamo? È tipo una sbarra però un po' più grossa di quella che usano le italiane. Ma come fai a saperlo? Ah, ci ho preso? No, io no. tiravo completamente a casaccio. No, una sbarra russa mi viene da pensare al dance pole, no? No. No. La sbarra russa si tiene in orizzontale. Per quanto Urana potrebbe anche sì, ma c'è Urana fa di tutto, sì, figurati. La può piegare in un attimo la sbarra russa. Qua ci vuole il vuoto coxico della pensavo la i 30 di secondi di silenzio che ha preparato Pasquini. Ah, se volete li metto su subito. No, è un attimo. La sbarra russa è questa sbarra, appunto, che si tiene in orizzontale, ma è tenuta da uomini. Quindi viene tenuta a mano e viene come dire alzata ed abbassata. Alzata ed abbassata per far prendere l'artista lo slancio per fare il salto mortale sulla sbarra. Hai capito? Oddio, hai capito? Quanti uomini ci sono? È tipo la roulette russa che però anziché ammazzarti con una pistola ti ammazzi con una sbarra. Esattamente. Sì. Però per la cosa bella è che Urana invece vai e vola. appunto. Ecco. Bene, no, lei è un gioco, cioè lei è veramente il clown che gioca con il pubblico e sta con il pubblico durante tutto lo spettacolo, e questa è la cosa bella, che lei coinvolge, ha una forza di coinvolgere gli spettatori all'interno dello spettacolo e di fargli passare un'ora da un'altra parte. Quindi siete caldamente invitati allo spettacolo di apertura del Dul Camara Circus, e questo succederà questa domenica. L'ingresso è gratuito. Ingresso gratuito alle 15:30. Alle 15:30. Col bel sole che ci sarà questa domenica. Cosa dite, bambini, ci andiamo? Pasquini. Yumi mi fa no. Ma perché? Non lo so. A 12 anni. Anni. Ci saranno 22/23 gradi all'agriturismo Dul Camara, dove si tiene questa rassegna. Dove fra l'altro entrambi i miei figli sono già stati numerose volte. Vedi? Con la scuola. E solo che rispetto alle altre volte non ci saranno i compagni di classe, non ci saranno le famiglie, ma ci sarà un sacco di gente anche da divertirsi, perché questa inaugurazione è sicuramente attesa. Anche perché cade con la festa di primavera, quindi dalle 10 del mattino alla Dul Camara. A tua figlia dodicenne. Sì, fatto sta che comunque loro si divertono di più con i loro compagni di classe che non, Ma certo. Che non con me o con te o con lui. No, però. Ma ci saranno anche, insomma, coetanei. Sì, ma come no? Sì, ma certo. Bene. Poi passiamo alla domenica successiva, quindi domenica 26 marzo, sempre alle 15.30, ospitiamo uno spettacolo di bolle di sapone. Si chiama Il Soffio Magico. Loro sono degli illusionisti, maghi e dei grandi fabbricatori di bolle. Quindi ci sarà da vederne delle bolle. La foto che presenta lo spettacolo è veramente molto suggestiva. Magico. Esatto. Hai capito anche stavolta, hai sentito? Bravo, eh. Quindi questo è un po' la grande la grande magia. Magia anche tu? Sì, la magia. Questo... Ti trasformasti. No, ma allora, Urano bolognese e invece loro? Loro stanno a Bologna, ma lui è argentino e lei, loro sono una coppia, e lei è pugliese, non so di dove precisamente, ma lei è pugliese. Il Soffio Magico. Grazie, Pasquale. Prego. Quindi... In cinese no? In argentino. The Magical Caress. Ostia, non è male, hai capito? E poi è interessante questa traduzione, caress. È un po' poetica perché ha tradotto caress. Soffio come caress. Questo capito? È molto bello, sì. Perché effettivamente il soffio magico è the magical caress in inglese, cioè non è un soffio ma diventa una carezza. Che bella cosa, hai capito? Preferisco il soffio, io preferisco il soffio, è romantico. No, perché di romantico. Solito Google Translate traduce letteralmente, per cui dal cinese all'italiano non si capisce più niente. Ma vallo tu a dire ai miei studenti cinesi che mi fanno una tesi su il viso dei siti internet. Perché, scusa, a me manca un tassello della storia. Tu che fai per vivere? Ma lui quando non era qui. Quando non è in radio. Insegno la sbarra cinese. Con Google Translate. Vabbè. No. Andiamo avanti. Allora, il 2 aprile, che è la domenica successiva ancora. Ma ci dici subito tutta la rassegna tutta, così? Pam pam pam. Sì, così. Arriviamo fino al 2 aprile, perché abbiamo modo di collegarci a una cosa che succede. Sì, ho capito. Hai capito tutto? Sì. Allora, il 2 aprile, imperdibile spettacolo di equilibrismo con Luca Tressoldi, che è un artista cremonese, arriva da Cremona. Sulla corda. Ricco di famiglia lui. Sì. Va bene, quei 30 secondi di silenzio sono sempre alla portata di mano. Luca Tressoldi porta in scena la realtà vista da un altro punto di vista. Cioè, i punti che di solito sono i nostri appoggi sicuri, no? Le certezze, lui le capovolge. Ma è filosofico. Sì, lui è molto e fa anche ridere. È più francese. È un po' più francese, oui, oui. C'est un peu plus la français. Realtà vista da un altro punto di vista. Ma come fa a scrivere così velocemente le frasi? Cioè, anni di pratica. Capito? Anni di pratica. Sì, è compiaciuto, guarda. È compiaciuto. No, insegno stenografia, non lo sai. Ai cinesi. E quindi domenica 2 aprile, sempre alle 15.30, vi aspettiamo per Circo Tressoldi. Anche qui, titolo originalissimo, direi. Ne avevo proprio bisogno, grazie. Grazie, sì, grazie. Sì, sì. Molto bene. E tutti quanti questi spettacoli hanno luogo la domenica alle 3:30 all'Agriturismo Dulcamara di Ozzano dell'Emilia, in località Sette Fonti. E sono gratuiti. E andiamo col secondo brano. Si cambia decisamente atmosfera. Questa è un'atmosfera che io mi ricordo. Paradise. You kiss me once. Te l'avevo detto che cambiavamo. Che cambio. Sì. Pronto? Pronto! Ma è un cambio anche di c'è un altro super mega galattico ospite, ma chi è? È Nando! No, proprio lui, ma che è? Il capo comico? In persona. Ciao Nando! Benvenuto al Coxo, buonasera. Grazie per essere qui con noi. Prego, dite. No, dici. Io volevo che tu parlassi, allora io appena intro... Ma devo sapere anche che cosa dire, quindi... Ma sì, mo te lo chiedo io, non ti preoccupare. Io ho appena finito di introdurre lo spettacolo del 2 aprile al Dulcamara Circus, ma... Sì. Veniamo da un brano che è Paradise, capisci? Quindi ecco, ti sto per introdurre all'argomento. Il primo aprile, sabato primo aprile. Quindi il giorno sì. prima. La compagnia Nando e Maila che organizza tutto sto popò de roba, che è Dulcamara Circus. Sto popò de rassegna. Va in scena dove, Nando? Alla Dulcamara. Ma no! Il primo aprile. Ma mica gli artisti sono così. Ero concentrato ancora su Dulcamara. No, andiamo in scena in quella meravigliosa cornice che è il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. Bam. Meraviglia. È un teatro Nando che ho fatto per in vedere. Persona. Anche se non volete venire a vedere Nando e Maglia, almeno venite a vedere il teatro. Almeno per quello ne vale la pena. Ma secondo me per le due cose insieme per le ancora. Due cose insieme. Ma veniamo a vedere Nando e Maglia in mostra oppure fate qualcosa? Nel meraviglioso sconcerto d'amore, insomma, per tutte quelle cose che non hanno ancora trovato l'armonia coniugale. Possono venirla, come dire, ad assaggiare soluzioni in questo sconcerto d'amore. Nando, tu l'hai trovata l'armonia coniugale? Questo te lo dico dopo. In Nando, in persona. Diciamo che per ora ne presentiamo la versione pubblica, che è quella di sconcerto d'amore. Ecco. Io avrei una curiosità. I panni sporchi si lavano in famiglia, come si dice. Ma per caso Paradise è nella colonna sonora dello spettacolo? Esattamente. Paradise è, come dire, ci sarà una mela, la mela del peccato, che verrà sostenuta da questa musica esotica, ormai esotica, che Paradise sì, è presente come musica nello spettacolo Sconcerto d'amore. Per chi non lo sapesse, Nando e Maila, che sono due acrobati musicisti. Più musicisti che acrobati, ma va bene. Insomma, si è fatta pure una certa, diciamo la verità. Si è fatta pure una certa. No, vabbè. Ma per quella c'è la seconda generazione, no? Che sta crescendo. Ma soprattutto il nuovo spettacolo. Soprattutto. No, ma il numero sarà concluso dalla nostra meravigliosa Marilu, che darà onore alla parola circo, come dire. Chi è Marilu? Nel senso più alto. Marilu, che è nostra figlia, chiaramente. Quindi una sorpresa finale aggiunta di recente, tra l'altro, non la figlia, il numero, ecco. Quanti anni ha Marilu? Marilu ha quasi 10 anni, quindi... Ed è già la star del vostro spettacolo? L'Etoile. Diciamo che la ciliegina, più che stare, è una ciliegina, e adesso è la ciliegina sulla torta, come dire, mettiamola così, dai. Hai capito. Marilu. Insomma, storie di famiglie semi circense, non so come dire, perché poi loro non sono una vera famiglia circense, perché non vengono da una tradizione circense di famiglia. Sono dei disadattati. Esattamente. Parola che rende giustizia, di disadattati felici, però felici. Consapevoli e felici. Consapevoli e felici, ecco, consapevoli è un'altra parola che si adatta bene. E quindi niente, volevo fare sconcerto d'amore, musica, ecco. Circo, clown, teatro, emozioni, sorprese, colpi di scena. È una serata da non perdere, ripeto, in questa meravigliosa cornice che è il Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto, perché è veramente, come dire, anche il luogo fa la poesia e in questo caso contribuisce bene. Sì. Poi pensa che quando loro suonano Paradise durante lo spettacolo, che è quello che volevo sapere, lo sapevo, che è l'immagine che fa da locandina, e insomma l'immagine dello spettacolo è presa da una foto mentre loro suonano Paradise. Maila suona con una mano il bombardino o flicorno baritono, che anche lì magari se ci spieghi un attimo meglio che cos'è. Questo te lo spiego. chiede un trombone, un trombone, un trombone, chiamiamolo esatto. Trombone, un trombone per andare corto, ecco, con la mano sinistra suona il trombone, con la scusate, con la destra suona il trombone, con la sinistra suona gli accordi della fisarmonica. Nando, che è dietro di lei, con la mano destra sua di Nando suona la tromba, e con la mano sinistra, ho sbagliato le mani comunque, sì, suona la tastiera della fisarmonica. Insomma, è un casino, un intreccio. Non ci si capisce più niente, ma è bello. È l'amore, è l'amore. Il trenino dell'amore. Esatto. E poi vengono fuori le Marilù, capito? E poi dopo un po' vengono fuori le Marilù. Capisci, esatto. Hai capito, Stefano? Ho capito abbastanza. Va bene, quindi niente, appuntamento sabato 1 aprile con la compagnia Nando e Maila, che ritorna nel Bolognese, quindi a San Giovanni in Persiceto, per Sconcerto d'Amore alle 21.30, e i biglietti li trovate al numero della biglietteria del teatro, in teatro stesso, ci sono le prevendite su Viva Ticket, quindi insomma. E poi invece Nando e Maila torneranno anche alla rassegna Dulcamara Circus. Yes, brava Fedra, qui ci ricolleghiamo alla rassegna, perché nella, non so cosa stia facendo Nando nel frattempo. Nando, sento molto concitato. Sì, no, perché sono qua per vicino al ristorante, perché stiamo per andare a mangiare, quindi mangiate. Bravo. Sì, mangiamo, anche gli artisti mangiano. Comunque a Pasqua, perché noi non ci facciamo mai mancare la Pasqua nella rassegna. C'è il concerto per tubi della compagnia Nando e Maila, che è un piccolo estratto di quello che forse sarà il nuovo spettacolo. Forse. Ma noi, diciamo, lasciamo vaghezza. Un assaggio, un'anteprima. Esatto. Ma che vedo la foto di scena, sono proprio tubi, quelli arancioni che si usano per fare le tubature. Esatto. Assolutamente, tubi, veri original tubo in PVC. Nando è partito con questa sperimentazione sui tubi di PVC, quelli che si usano per gli scarichi quelli arancioni, scavando nei prati, tirando fuori, ha trovato questi nuovi materiali. Sì, cantieri, anche comprati, girando per i cantieri. E c'era un po' l'idea del riciclo, insomma. La cosa interessante è che lui è riuscito a farli suonare, quindi suonano come dei veri e propri strumenti. C'è un contrabbasso, un violoncello, un violino. Un ricercatore. Wow. Nando, sì. No, questi mi interessano, devo dire. Ma anche Sconcerto d'amore. Sconcerto d'amore parte da questo presupposto. Racconta, Nando. Ma niente, appunto, anche Sconcerto d'amore, poi il nuovo spettacolo nasce un po', noi diamo un po' una sorta di continuità di sviluppo di quello che è un progetto poetico, e Sconcerto d'amore vede la trasformazione della struttura per i trapezi e tessuti, che sono le tecniche del circo, in una sorta di orchestra, cioè i tubi della struttura diventano contrabbasso, violoncello, campane tubolari che suonano, arpe e così via. Quindi il riciclo, fra virgolette, di una struttura che è nata per un'altra cosa, per il circo, viene utilizzata invece come strumento musicale. Invece nel nuovo spettacolo prendiamo origine a questa idea di trasformazione, prendiamo dei veri e propri tubi proprio di plastica, quelli utilizzati, come dire, per la carpenteria, per la... gli scarichi. Per l'idraulica, per gli scarichi, detta come va detta, e li trasformiamo in strumenti musicali, e addirittura anche alcuni strumenti circensi vengono anche hula hop, diabli, clave che suonano. Di plastica vengono trasformate in strumenti musicali. Quindi. Ma Nando, questa cosa è fenomenale, fantastica. Dovete venirla galattica. Ad ascoltare, vedere. No, in realtà sarebbe bello se li portassi qui tutti questi strumenti. Ma si può fare? Farci un concertino con questi strumenti. Adesso capiamo. Sento lo scarico, fra l'altro. Sì. esatto. No, adesso capiamo in che. Sì, certo. E intanto che no? Lo capiamo, io direi andiamo con le mega galattiche pubblicità delle 9:30. Oh yeah, perché si è fatta una certa. E intanto noi rimaniamo qua e ci mettiamo d'accordo. Va bene. Ciao. Ciao Nando, buon appetito. Ciao. Saluta Maila. Ciao. Grazie. Ciao. La rubrica di Zino. Come il nome di un cinese. Come un cinese. mattina presto in una strada fuori Porta Saragozza, con l'aria talmente gonfia di umidità che la si può masticare. Il sonno non mi ha ancora del tutto abbandonato, mentre stancamente mi porto verso la fermata del 37. Appoggio il sedere sulla panchina di metallo freddo e lascio scivolare la testa sul quadro delle linee urbane. Un risvolto dei miei pantaloni si è arenato ad altezza stinco, prigioniero dall'elastico di un candido calzino spugnoso. Sono combattuto tra il dormire e il pensare, anche se a quest'ora del mattino e dopo la serata giovanile a casa Pasquini di ieri sera, le due cose sarebbero praticamente coincidenti. Mi viene in mente un vecchio professore del liceo, latino, storia, non ricordo bene, forse sarà morto. Mi diceva sempre, i sogni sono desideri. Non lasciare però che i desideri rimangano dei sogni. Sarà, ma ora sono stanco. Il 37 passa e io schiaccio un pisolino sulla panca della fermata. Ah, Bologna. L'altro spazio è Art Gallery, è bar culturale, è ristorante, è il locale accessibile a tutti e che distrugge materialmente non solo il concetto. Cercaci anche su Facebook. Cox spaziale. Siamo di nuovo in diretta con la 176. Com'è che lo sa lui e tu no? È perché mi si è spostato. Perché io c'ho la memoria fotografica. Bravo, bravo, è così che impari la parte. Eh sì, perché siamo... Io invece devo sempre mettermi lì a scrivere tutto. No, ma non lo so. Vabbè. Comunque, siamo qui per la seconda parte della Super Mega Galattica 176esima puntata, che da domani sarà riascoltabile su www.coxospaziale.blogspot.com. Non farmi così, Federico. E siamo con Federico Cibin. Il tema portante è il Dulcamara Circus Rassegna che ritorna a Dulcamara a Ozzano. Yes. E adesso ci sono le... L'angolo della menzione. Sempre allegro. Sempre allegri bisogna stare. Sabato 18 alle ore 21. Sì. Sì. Sì. Oh. Posso dire io? Alle volte Loli Farnedi. Ah, ecco, ce l'abbiamo fatta. No. Ogni tanto ci mette un po'. Fateci scendere. Di e con Enrico Farnedi e Riccardo Loli allo spazio binario di Zola Predosa. Yeah. No, proprio a casa vostra. Certo. Ma ci devo venire anch'io. Devi venire anche tu, Farnedi. Chi è stato? Ah, sono stato io, fantastico. che bello. Farnedi e Lolli racconteranno fiabe inserendo l'uno l'ukulele e l'altro il pianoforte nei reciproci brani, ma senza farsi male, raccontando oggettivamente un perché soggettivo, ma soprattutto ricordando al pubblico: siate affamati, siate folli, noi saremo Farnedi e Lolli. Ma non ho capito perché. Perché fiabe? Non ho capito niente. Ma perché non lo sai tu? Ah no, ma non chiedevo a te, chiedevo a lui. A me? No, neanche a te, no, Farnedi. A chi? A te. Ma Enrico Farnedi. Certo. Oh, che pronto. Bello. Pronto. Enrico, ciao. Bonsoir, quanto tempo. Quanto tempo, come stai? Troppo tempo. Bene, bene. Un saluto a voi, agli ospiti presenti in studio e anche a tutti gli ascoltatori a casa. Ma che bravino. Ciao. Che è, proprio come Lolli, sono tutti a modino, loro due. Ho studiato. Come si fa. Molto bravo. E dunque siete affamati, siete folli, ma perché fiabe, racconti delle fiabe, non ho capito. Sì, no, perché vogliamo intrattenere il gentile pubblico che interverrà, numeroso, si spera, domani sera allo spazio binario, oltre che con la musica, con diciamo le nostre doti più o meno nascoste. Poi Lolli in realtà non ha doti nascoste perché... Ce le ha tutte esplicite. Esatto, tutti conoscono il suo genio, che non riesce a rimanere costretto all'interno di una categoria soltanto. Certo che insieme voi due siete già una favola, quindi... Esatto, siamo i favolosi Farnedi e Lolli. Era un altro titolo che avevamo scelto ma abbiamo scartato. Però sì, in realtà sì, l'idea è quella di arricchire, diciamo, le canzoni, perché comunque di base l'ossatura, lo scheletro dello spettacolo saranno le canzoni nostre, che suoniamo insieme già da diversi anni, cioè un po' di canzoni di Lolli, e arricchirle con appunto dei piccoli stralci dai libri di Lolli, perché Lolli, per chi non lo sapesse, ha già pubblicato due libri. Ah, noi del Coxo lo sappiamo, abbiamo fatto anche la puntata. Infatti, esatto. Oltre naturalmente a partecipare a Coxo Spaziale e ad avere un programma tutto suo, Uova, Sode e Noci, al giovedì su Radio Città Fujiko alle ore 23. Anche la famosa rubrica Due Minuti di Lolli. Esatto. Poi in realtà esatto. Avete chiamato me invece di lui per non risultare troppo nepotisti. No, sì, ma esatto. È anche in realtà. Comunque c'è anche Giffo che dire... dice: dia Farnedi di tacere Recchia. Vabbè. Chi l'ha detto? Giffo. Fuga per arte. Ok, perfetto. Sì, ho capito. Ma io colgo l'occasione invece per ricordare che così a Lolli glielo dico sempre, adesso lo dico anche a te, che era un po' che non avevo l'occasione, ci servirebbero nuovi jingle. Perché... Infatti, perché ho ascoltato il jingle di prima, che è sempre molto bello, però è un po' datato. Quando facciamo? Lolli Farnedi. No, vabbè, scusami, mi sono allargata troppo. È bellissimo in cinese. Anche perché Lolli lo scrive in cinese, Farnedi invece rimane in italiano. Sentiamo di nuovo? Lolli Farnedi. Fanati. Bello! Perché Lolli è internazionale. Esatto. Lolli riesce invece Farnedi è romagnolo. Io sono localista. Esatto, sono romagnolo. Sono romagnolo mio malgrado. Molto bene. E domani quindi ci sarà questo spettacolo con anche scenografie incredibili, tipo un lettino da mare o... Lolli farà cose incredibili, si può stare sia seduto che in piedi durante la stessa serata. Anche sullo sgabello? Certo. Anche sì, sgabello, a sedere, sdraiato. No, sdraiato non si sa ancora. Non esageriamo, per favore, Enrico. Allarghiamoci. No, però vorrei lasciare anche un po' di suspense per il pubblico, magari scopriranno delle cose incredibili. E poi ci sarà il momento in cui suoneremo alcune canzoni nuove di Lolli, perché vi racconto questo piccolo aneddoto. Che risale all'estate scorsa. Ci piacciono i Coxo Scoop. Coxo Scoop. È successo questa cosa che io c'erano alcuni amici cesenati, io sono cesena, che organizzavano una loro rituale festa in campagna, e sono sempre queste feste a tema, e avevano deciso di fare una festa a tema settimana enigmistica, era una festa enigmatica. e chiedevano a me di consigliarvi qualcuno che potesse suonare a questa festa, e io ovviamente ho pensato subito a Lolli. Certo. E gli ho scritto tipo a luna di notte un messaggino dicendo: guarda, c'è da fare questa cosa, pagano poco, però sono simpatici, si sta bene, la festa è a tema enigmatico, sarebbe bello se tu scrivessi anche una canzone a tema, così, perché lui lo conosco e mi immaginavo che avrebbe potuto farlo. Lui mi risponde tipo alle 9 di mattina il giorno dopo dicendo: no, la vita è incasinatissima, tutti i suoi problemi in casa, fuori, il lavoro, la macchina, il gas, tutto quanto, e tutto, non ce la faccio, però grazie per avermi chiamato. Poi invece, questo alle 9, alle 11 mi arriva un'email con due brani finiti, registrati, e tipo alle 6 di sera i brani erano diventati 3 o 4. Per cui diciamo che Lolli, una volta che viene pungolata nel modo giusto, produce... E allora noi continueremo a pungolarlo bellissime. Per i jingle. Sì, ma potremmo fare come l'altra volta, che ci trovammo nella mia cantina, io, Lolli e Pasquini, abbiamo fatto... Solo che vengo anch'io stavolta. Stavolta, portiamo anche Fedra, anche Yumi e Nicola, così facciamo tutto in diretta e non se ne parla più. Prima però che faccio la spesa. Ah, ok. Va bene. Molto bene. Ospitalità romagnola, 100 punti. E dunque domani alle 21, fateci scendere, biglietti intero 10 euro, informazioni al 333 20 56 545, info@spaziobinario.it, e questo è lo spazio binario di Zola Predo, e ci vuole la macchina per andare. No, esatto. Ma scusa, a meno che non vuoi rimanere a Zola Predosa fino a... ci vuole la macchina per tornare. Ci vuole la macchina per tornare, ecco. È diverso. Io hai ragione. Ho anche lui a posto e torna a Cesena, per cui se qualcuno da Imola vuol prendere il 671. Ma c'è l'evento Facebook anche? Certo. Allora dobbiamo pubblicarlo subito. Dobbiamo pubblicarlo subito sul nostro blog, così domani mattina vi scrivono lì quelli che hanno bisogno di passaggio e voi raccogliete. Esatto. Molto fantastico. Torna Pasquini anche qui, perché la foto che c'è sull'evento Facebook ci è stata scattata da Pasquini. Infatti volevo ringraziarvi per i crediti che non avete messo da nessuna parte. Da nessun'altra parte. io non mi sono occupato della cosa, mi dispiace, però sì, in effetti il tuo ufficio stampa abbiamo la colpa di Alolli in contumacia. E comunque non c'è problema, porto il taser domani sera. Allora Enrico, ci vediamo domani sera e poi prestissimo per andare, dopo che hai fatto la spesa, a fare i nuovi jingle nel tuo studio. Sì. Va bene. Ok. Molto bene. Un bacio, a domani. Ciao ciao. Ciao ciao. A voi. Ciao. Ciao ciao, grazie. Buona serata. Ciao ciao. Ma lo sai che a me questa cosa dell'ukulele mi fa venire tanto in mente Susy Muso Grigio? Ah certo. Come sta la Susy? Come sta la Susy? Chi lo sa? Effettivamente mi sa che lei al venerdì sera ultimamente esce. Ci hanno spostato. Ma al 333-180-94-94 ha scritto qualcuno? Sì, ha scritto Giffo di tacere a Farnedi. Ah. Molto bene, andiamo avanti con le menzioni, cosa ne dici? Io questa prossima non la posso leggere. Io sì. Ah, dai, smash. Vai sabato tu. 18 alle 23 di Schwarze Nacht. Sentite che Nacht che ho detto. Sticchia. European Ghost Live at Riff Club di Prato. C'è European Ghost che presenterà il nuovo CD nell'unica tappa toscana del loro Pale and Sick Tour 2017. Dio bono. Adesso io vorrei capire perché c'è una menzione di Prato la sera in cui suonano Farnedi e Lolli e Zola Predosa, perché The European Ghost è un gruppo bolognese che ti è molto legato. A me è molto legato. Ah, fantastico. Tu molto sai bene. Chi è il frontman? Chi è il frontman? Lo sai o non lo sai? Ah, certo che lo so chi è. Allora? E allora che? Chi se ne frega? Vabbè. Non capisco. Ma andiamo avanti a domenica 19 marzo. Che devo andare io? Devi andare no, tu. No, l'abbiamo già. Vado io. Allora vado io. Domenica 19 marzo, 15:30, all'Agroturismo Dulcamara. Vai e vola di e con Urana Marchesini. Spettacolo di apertura della rassegna Dulcamara Circus 2015 di circa... 2015, ma questa legge fischi per fiaschi, ragazzi. C'è un problema con i numeri. Ammazzate, 2017. Sì, è vero. Circo teatro, comicità e acrobazie, ingresso gratuito. Olè. E invece martedì 21, Hamlet solo, at Lenz Teatro in Parma. In occasione della giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down, l'ENF Fondazione presenta Hamlet Solo, spettacolo interpretato dall'attrice sensibile con sindrome di Down, Barbara Voghera. Repliche mercoledì 22 marzo alle ore 11:30, giovedì 23 marzo alle ore 18:30. Per informazioni www.lenffondazione.it oppure www.coxospaziale.blogspot.com da domani. Sono riuscito a farlo anche doppio, hai visto? Bravissimo. Non ho capito come. E anche queste menzioni sono finite. Ma queste sono le meraviglie. Ritorniamo un pochino al tema principale della nostra puntata. Lo sai qual è il tema? In due minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Per consultare le soglie del tuo piano e delle tue opzioni, digita 1. Per proseguire, digita 2. Grazie, c'è da fare. La invitiamo a digitare la sua scelta. Grazie. Per consultare le soglie del tuo piano e delle tue opzioni, digita 1. Per proseguire, digita 2. Per i dettagli dell'offerta sottoscritta, sei molto bella, digita 1. Per informazioni sulla fattura e richiederla in formato elettronico, digita 2. Se hai acquistato uno smartphone non 3 e non riesci a navigare in internet, oppure vuoi disattivare la segreteria telefonica o i servizi in abbonamento come news, suonerie e giochi, digita 3. Per sapere come controllare il consumo delle soglie e attivare nuove opzioni, digita 4. 4 stagioni. Per segnalazioni sulla copertura o nell'utilizzo dei servizi voce e internet, digita 5. Le 5 variazioni. Per scoprire i nostri programmi fedeltà, digita 6. Se ci stai contattando per le variazioni di alcuni servizi accessori come le 5 variazioni, digita 0. Ti invitiamo a digitare la tua scelta. Grazie. Per scoprire i nostri, digita 9 per parlare con un nostro operatore. Forgive me, baby, and believe me, I didn't want to hurt you. I promise. never do that again. But you see, sometimes I just can't behave. But does that make me a bad girl? Già finito? Lolly Farnedi. Wow, ma questo è stato un due minuti di Lolly tra i più mega galattici, tra i più lollici che abbiamo mai scoperto. Avuto. Questa volta questi due minuti di Lolly. Ma come, perché... hai fatto anche il W? No, non c'erano questi due minuti di Lolly. O se io c'ero dormivo, non lo so. Forse dormivi, certo che no, c'era. No, forse l'anno non c'erano, c'era. questo è il 47esimo. Secondo me l'anno scorso c'era. Sì, ma... lo chiederemo a Lolly. Ma magari ce lo dice. Cox spaziale. Te l'hai ridimenticato. Esatto. Abbiamo un messaggino. Da chi? Non lo dice. Aspetta che l'ho perso. Mm-hmm. Appunto, dice 176 puntate, puntini puntini, che P, puntini puntini. Questo ha capito tutto. Cosa vuol dire? Lolly Farnedi. Hai capito? No. Hai capito? Te lo dico. Allora l'ho capito. Molto bene, andiamo avanti? Cosa dobbiamo sentire questo brano del 1959 per continuare a parlare di quello no, che... No, quello lì è il brano alla fine. Ah, ok, no, è il brano alla fine è un altro. Ah no, allora metti prima il tuo. No, come metto prima il mio? Dove siamo? A che punto siamo? È importante per la fine. Ah sì? No, ma quello per la fine? Molto bene. No, sai che cosa è successo? Allora, due cose sono successe. Sono andato alla conferenza stampa di questa nuova macchina temporale che si chiama Macchina del Tempo e... che ci sarà al Museo della Storia di Bologna. Ah, la macchina del tempo. Si chiama la macchina del tempo, praticamente ti buttano dentro a un videogioco dove vedi le torri di Bologna nel Medioevo e anche ci sono i cani, c'è gente medievale, è una roba abbastanza spaventosa. Sai che l'ho visto un po' qualche demo su internet. Ecco, e io ci sono andato e a un certo punto c'è l'opzione, a un certo punto il signore mi ha detto ti faccio volare. Ah, ok, e mi ha messo in cima a una delle torri e mi ha fatto volare ed effettivamente guardi giù, perché poi succede che tu guardi giù fisicamente e lo schermo guarda giù e ti caghi addosso praticamente. Ma con l'Oculus, sì, certo. No? Sì, no, tu in realtà sei in una stanza tipo questa, però sei in giro nella Bologna medievale, è abbastanza curioso sta cosa. Interessante, però sto diventando un po' critica nei confronti dei contenuti Oculus, sai? No, infatti devo dire che sì, bisogna specificare che se uno vuole andare a vedere com'era la Bologna medievale, forse non è esattamente la cosa migliore, ma se uno vuole giocare un po', una sorta di videogioco di videogioco così, può funzionare. Cioè diciamo che è un po' più gioco e poco e meno storico, però è interessante questa cosa. Invece la seconda cosa interessantissima invece è uscito un nuovo pezzo di Jenny Owen Youngs. Ah, pensavo di Tamara Bubbles. No, Tamara Bubbles forna, me ne manda tipo 4 alla settimana. È abbastanza spaventosa, ma brava, ma non altrettanto brava quanto lei. Sì. Che ha la vocina come piace a te. Senti qua. Crushing just how heavy things can get. Thousand albatrosses around my neck, feeling like I'm the only one who's down on the floor. But I don't have to be lonely, need the weight of the world, 'cause I see you, and you see me too. It pulls me through, watch you do what you do, 'cause you've got demons to fight, wrong against right for the rest of your life. And I'll have battles to win without and within for as long as I'm in this skin. dammi almeno un altro, aspetta, un altro riff, giusto un attimo, e poi possiamo parlare. Capito? Ci sta bene. Ci sta bene con questa musica. Only one who's different inside. How could anyone know me? They don't get what it's like, but I see. Adesso convieni con me che era un brano da mettere in fondo. Per Federico sì, me è molto importante l'ultimo brano, che devo fare una dedica. Ah, ok. Perché non sento questo microfono? Lo sentono questo microfono? Io non mi sento più. Tu non ti senti più? Ti alzo la cuffia. Aspetta, no, volume tu. Lo senti questo? Io ti sento. Ti sento. Beh, se mi avvicino forte, mi sento. Ma perché? È che voi. Infatti io ho paura che. Ecco, guarda. Vi aumento le cuffie perché voi non vi sentite, ma quando tu sentono. Ti avvicini troppo. Grazie. Sì, no, okay. mi fai male alle orecchie. Comunque, parlate tranquilli. Ci abbiamo dei messaggi, Yumi? Ci abbiamo dei messaggi? Sì, dice così. No, molto bene. Allora vado avanti con la chiusura della Federico rassegna. Federico Cibin della compagnia Nando e Mai. Vado veloce. Dunque, gli spettacoli che rimangono da ricordare sono lo spettacolo degli allievi della scuola di circo, che è in due appuntamenti, il sabato di Pasqua, sabato 15, e il martedì su degli orari differenti che... Vi consiglio di controllare sul programma che trovate sul sito della Dulcamara, www.copdulcamara.it. Per chiudere in bellezza c'è lo spettacolone di Pasquetta, che si fa, si tiene all'aperto nel prato della fattoria, sperando nel bel tempo ovviamente. E loro sono due artisti torinesi, o almeno di formazione circense torinese. Lui porta in scena la disciplina del palo cinese, lei è una tessutara della Madonna. insomma, è da non perdere perché visivamente è molto molto molto bello. Invece sono arrivati tre messaggi. Ciao, sono anonimo, è la prima volta che vi ascolto, non siete male. Ah, davvero? Ah. Così. No, Madonna! E poi? E poi ottimi gli ospiti, splendida la conduttrice, ma il professore cosa insegna? Scenografia? Questo chi è? Ma chi è? Ma non lo so, uno che ha una faccia spaventosa. Comunque, così. E quindi basta. No, io vorrei sapere un'altra cosa su un'altra donna meravigliosa che si chiama Orana Marchesini e che io adoro. Adoro. Detto questo, dobbiamo correre. No, io qua sapere? Faccio i 57, non so dalla vostra noi parte. I 55, che 56. E i 56 ecco. Sul computer. Molto bene. Ma in un minutino, dica. Mi puoi dire del qualcosina in più dello spettacolo di Urana che andrà in scena domenica 19 ad aprire la rassegna? Sì, sostanzialmente Urana lascia bocca aperta per la sua partita. Particolarità impulsiva, perché mi ha incuriosito anche a me questa Urana, devo dire. Ma te credo. No, ma lei è veramente da non perdere. Appunto, perché dolcezza e forza in lei veramente si uniscono per ritrovare, rilevare l'energia, rivelare, scusate, l'energia creativa che è in lei. T'ho detto abbastanza. Adesso non resta che venire a vedere. Esatto, basta. Cioè. E non resta che salutarci. Quell'ultimo brano. Vabbè, certo. Saluto Federico Cibin per essere stato qui. Ciao, grazie a tutti. Saluto e ringrazio Nando della compagnia Nando e Maila. Salutiamo anche Enrico Farnedi della compagnia Farnedi Lolli. Sì. Saluto te, caro Stefano W. Pasquini, che è stato tutto il giorno in regia. E io saluto te, cara Fedra, e saluto anche il nostro conduttore di radiologi, che è qui, che scalpita qua di dietro. Sì, ma del resto. Sì. L'unica cosa che devo ancora aggiungere è che è per Dario. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a fermare una pioggia d'argento. Ma piove sul nostro amor,